Qual è il discorso che veramente è interessante per me? Siamo abituati a pensare, o conoscevamo, la città come elemento piccolo e fortificato in cui una piccolissima parte di popolazione, parlo del Medioevo, una piccolissima parte di popolazione era dedicata ad attività specializzate, mentre la grande parte di popolazione viveva all'esterno. All'interno di questo sistema fortemente fortificato e difensivo, appunto, piccola parte di popolazione dedicata a fatti specializzati. Naturalmente potremmo anche ripensare alla metafora del linguaggio in quel momento, ma lasciamo stare. Conosciamo un'altra città, una città invece in espansione, una città che attrae grande parte di popolazione, perché sostanzialmente all'interno della città si producono beni manufatturieri e la città in espansione, la città industriale con tutte le sue contraddizioni. La prima città chiusa, fortificata, in cui una piccolissima parte di popolazione risiedente si occupa di alcune attività fortemente specializzate e caratterizzanti, c'è una seconda città in cui grandissima parte di popolazione si occupa della produzione dei beni manufatturieri. Oggi noi siamo in una terza città, in una città che è la città dell'informazione. Enormi quantità di popolazione si occupano sostanzialmente, non dico di scambiarsi gli sguardi, come un'altra bella citazione era stata detta, ma di un continuo scambio di informazioni. Queste informazioni vengono organizzate, passate l'una con l'altra, formalizzate in vario modo, eccetera. E adesso un attimo di attenzione. L'informazione, in fondo, se noi la guardiamo con gli occhi socchiusi, non è altro che il linguaggio, non è altro che la forma più alta del linguaggio. La base convenzionale che unisce informazione e linguaggio è assolutamente fondamentale, costitutiva di tutte e due le cose. Dico questo evidentemente perché mi occupo di informatica e quindi so anche dall'interno quanto la componente linguaggio e quanto la componente informazione siano, e informatica in genere siano legate. Chiudiamo la parentesi e torniamo a Wittgenstein. Wittgenstein, quando ha messo insieme quella metafora, non poteva in quel momento pensare al fatto che non era una metafora. Wittgenstein diceva: guardiamo la città come un linguaggio, pensando che fosse una metafora. La cosa importante di oggi è che questa non è più una metafora, è la realtà economica, strutturale, in termini marziani. È esattamente la città, noi viviamo esattamente nella città dell'informazione e noi viviamo esattamente nella città del linguaggio, dove il linguaggio diventa forza economica, trainante, fondamentale, organizzante. Non a caso siamo nella terza ondata. Allora, questa è la premessa al discorso. Siamo nella città dell'informazione. Ora che siamo nella città dell'informazione, che cosa facciamo nella città dell'informazione? Per prima cosa, quando facciamo le presentazioni, le facciamo su internet. Allora, nessuno di voi ha un computer davanti a sé, ma se volete, potete, io sto facendo la mia presentazione da internet in questo momento, questo è il mio sito, che è abbastanza facile andarci, basta mettere il mio nome su Google. E c'è un puntino nascosto qua, eccolo qui, tra la locandina e l'immagine, che vi porta alla presentazione. Quindi non siamo riusciti ad attaccare il wireless qui, ma se a casa volete seguire tutto, lo potete fare. Allora, vediamo un attimo, entriamo un po' più nel merito, nei progetti che vogliamo farvi vedere. E ne facciamo vedere soltanto tre o quattro, ma per darvi l'idea che tipo di lavoro noi svolgiamo e che tipo di sperimentazione noi svolgiamo. Allora, tutti i progetti redatti dalla Carta di Progettazione Architettonica Assistita si muovono nel quadro operativo del progetto urbano e mai in quello del singolo edificio. Come è noto, si tratta di un'impostazione ormai prevalente in molte città italiane e caratterizzante anche la città di Roma e le recenti indicazioni del suo piano. Ciascun progetto urbano, come sapete, la visione del progetto urbano non si riferisce soltanto alla scala dell'intervento, ma si riferisce a una modalità complessa di compresenza di innanzitutto agenti pubblici e privati, ovviamente, di interessi complessi, di intreccio di funzioni complesse, eccetera. Ciascun progetto urbano si basa, nel nostro caso, su una forza trainante, e cioè su una funzione guida fortemente caratterizzante, che oltre ad essere necessaria e plausibile nelle diverse situazioni, ha caratteristiche innovative perché è caratterizzato dagli scenari degli anni 2000 e dal ruolo dell'informazione nella società contemporanea. Che cosa vuol dire che si opera in ogni caso attraverso un concetto di forza trainante? Più si conoscono i processi in atto nella città degli ultimi 20 anni, possiamo anche chiamarla città dell'informazione, più ci si rende conto che i progetti di maggiore successo si basano su una idea molto forte, che noi chiamiamo una forza trainante, un'idea caratterizzante. Siccome viviamo in un mondo del molteplice, in un mondo in cui c'è spazio per veramente per molte cose diverse, nell'attimo in cui si riescono a legare l'una con l'altra, a collegare in rete e a far conoscere, in qualche maniera è veramente possibile lavorare con progetti caratterizzati da una vera e importante forza trainante, caratterizzante, all'interno della quale si sviluppano, in ogni volta in un caso diverso, una complessità di funzioni. Tutti i progetti contemporanei di una certa natura, tutti i progetti urbani di una certa natura, sono progetti misti nelle funzioni e caratterizzati di volta in volta da una specifica forza trainante. Basta vedere, non so, anche nella nostra Roma, quello che sta cercando di succedere, o che in parte è successo, come nell'Auditorium, per esempio, che è sicuramente un progetto urbano, si configura come progetto urbano, si configura anche come un grande mix di funzioni terziarie, commerciali, culturali, di spazio urbano, probabilmente in piccole parti anche residenziali sarebbe possibile, chiaramente fortemente caratterizzate dalla presenza della musica, ma questo può avvenire in tanti altri casi, in tante altre funzioni. In tutti i casi il progetto urbano si organizza, si organizza all'interno del concetto di mixité, con un insieme di attività produttive, residenziali, commerciali, infrastrutturali e per il tempo libero, in un mix caratterizzato di volta a volta diversamente rispetto alla forza trainante di ciascun progetto. Qui un attimo, se entriamo subito nei progetti, vi faccio vedere quelle che per noi sono le 5 funzioni prevalenti, le 5 funzioni che si inseriscono all'interno del pacchetto della mixité, in ciascun caso caratterizzato da una forza trainante. Allora, la prima, in particolare, si tratta delle attività produttive, che noi chiamiamo creating, gravitano sul ruolo del terziario avanzato legato alla società dell'informazione e spesso comprendono anche attività di natura culturale. Le attività commerciali e l'exchanging si caratterizzano in stretto rapporto alla funzione trainante e ne sono l'indispensabile supporto e volano economico. Le attività residenziali, il living, sono indispensabili per realizzare i progetti urbani effettivamente funzionanti e di volta in volta rafforzano le specifiche rafforzano le necessità specifiche del progetto. Le funzioni infrastrutturali, infrastructure, legano il progetto all'ambiente e ai tessuti circostanti. Ciascun progetto propone sempre un tema di risarcimento ambientale e risponde cioè al tema verde, alle funzioni della valorizzazione del tempo libero della città di Roma, ma non con un concetto di zoning, ma bensì attraverso un'intima relazione tra tutte le componenti formali e funzionali del progetto. Infine, il mix funzionale e forza trainante precostituiscono la condizione indispensabile del progetto urbano di oggi, e cioè una compresenza del settore pubblico in scelte strategiche e in orientamenti e del settore privato per l'effettiva implementazione, costruzione e gestione dei progetti. Ciascuno dei progetti proposti presenta una possibile declinazione del tema della mix di tema, una decisa forza trainante che lavora per una città di città integrata dell'informazione e la pluralità di soggetti privati e pubblici alla base degli interventi. Allora, attraverso i link eccetera è possibile accedere al database di tutti questi lavori, che sono circa una ventina. Noi in questo caso ne facciamo vedere soltanto alcuni. Per esempio, e anche abbastanza rapidamente, questo è un progetto redatto dall'architetto Rosetta Angelini e si tratta di un campus nella bonifica di Ostia Antica, sistemi interattivi e nuova tecnologia per lo studio dell'ambiente. Che cosa succede in questo progetto, per farvi un attimo molto, molto brevemente capire la struttura? Innanzitutto ci sono... I progetti si caratterizzano come progetti urbani o in questo caso addirittura progetti territoriali, perché c'è una comprensione, uno studio che a volte comprende anche il lavoro di altre cattedre, come in questo caso, su una determinata situazione. In questo caso è l'area del delta del Tevere, il suo intrecciarsi con i temi della bonifica pontina, la situazione ambientale lì, la presenza, come tutti sappiamo, anche di insediamenti di vario tipo e natura. Quindi c'è, diciamo, una parte anche abbastanza importante di analisi su questa situazione, l'individuazione evidentemente del tema di quello che abbiamo chiamato prima driving force o forza trainante, e cioè l'idea di qual è un tipo di progetto urbano che possa essere caratterizzante e significativo in questa situazione. È chiaro che in questo caso il tema ambientale ecologico costituisce la forza trainante e l'elemento caratterizzante. Quindi il progetto nasce attorno a un concetto di mixité in cui la parola chiave, la forza trainante, è l'ambiente, è l'ecologia, è lo studio e il monitoraggio della natura. Su questo cominciano a essere sviluppati una serie di diagrammi, che sono dei diagrammi sia di uso del suolo sia di intreccio delle funzioni. Naturalmente il tutto si lega a vari aspetti contestuali. Questi diagrammi, che sono allo stesso tempo dei fatti di natura cognitiva, funzionale, organizzativa, ma anche formativa, è chiara la vicinanza con tecniche proprio dell'arte, della pittura, del collage, portano gradualmente a una serie di forme, di organizzazioni, e di nuovo con uno studio sempre molto sviluppato nel tempo anche a delle architetture. Finalmente vediamo anche delle architetture. In questo caso si tratta di un progetto che riguarda in particolare una parte di questo campus, che in varie altre parti avevamo visto in maniera più completa. Ecco, il campus integrato si inserisce qua dentro. Quello che vediamo è una parte, è un edificio in particolare adibito a funzioni museali, mentre altre parti del campus si occupano di o fatti residenziali o fatti legati proprio al trattamento delle acque, al controllo, eccetera. Ecco quindi che, illustrato in tre minuti, all'interno di quella certa militarizzazione che dicevo prima, cioè nel senso che c'è un lavoro di squadra, c'è un dissodare i temi e farne emergere alcuni punti, che evidentemente è un grande lavoro collettivo, e su questo si inseriscono dei pezzi di vita delle persone sostanziali, perché fare una tesi laurea in qualunque disciplina, ma sicuramente in architettura, è un momento, diciamo, significativo proprio della propria vita. E quindi però i progetti a questo punto, così concepiti, dal nostro punto di vista sono armi di confronto, sono armi di riflessione, sono armi di stimolo e vorrebbero essere utilizzate in questi termini. È qualcosa di estremamente diverso dalla proposta utopica su cui molti di noi si sono formati negli anni 70 con alcuni dei personaggi chiave della facoltà di architettura. In questo caso non c'è il progetto di ricerca all'interno della disciplina che promuove temi caldi, non so, la grande dimensione, la territorialità o altro, con una forte spinta anche, come dire, utopica, se non teorica, chiamiamola fortemente teorica. In questo caso il ragionamento che muove la comprensione della società contemporanea è a monte, è abbastanza ben articolato ormai dopo molti anni. Queste vogliono essere armi di attacco, vogliono essere modi per incidere quantomeno nel dibattito culturale. E se per un momento è possibile abbassare la luce, vi volevo far vedere un'immagine soltanto che avevo scelto in base alle domande così ben strutturate da Paola. Allora, io penso che soltanto si possa un attimo, molto brevemente, affrontare la prima domanda, quella di cosa comunichiamo e qual è, diciamo, il progetto di comunicazione su Roma, che non è esattamente una buona formulazione, perché è una formulazione che vede insieme moltissimi altri aspetti, anche il famoso problema del progetto della città in quanto veramente capacità di mobilitare idee, forze, risorse su un'idea effettivamente condivisa di quello che Roma deve essere. È stato notato anche da Lorenzo questo punto, e cioè un certo calo di tensione progettuale, propositiva, ideativa della città, che in qualche maniera è giusto che lamentiamo. Quindi io volevo attaccare esattamente su questo punto. Chiaramente, cosa comunichiamo e come comunichiamo? Possiamo comunicare la complessità, il caos, la compresenza, il frammentario, diciamo il combinarsi nella società di oggi del molteplice. È quasi tautologico, lo sappiamo. Io credo che invece le responsabilità di chi opera a Roma a vari livelli, di questo punto parlerò, richiedono anche delle idee più chiare, e bisogna avere il coraggio di avere delle idee più chiare, con tutti i rischi del caso. Secondo me, per far capire qualche cosa di questa città, di quello che questa città può essere, per me l'immagine più importante che io uso dentro di me, che vi porgo a voi, è il dipinto di destra, che purtroppo voi vedete molto male, perché essendoci è invece tutto un quadro giocato sulle sfumature. È Rauschenberg, il quadro si chiama Persimmon, è del 64. In questo contesto era posto accanto a un dipinto di Mondrian per far, diciamo, in qualche maniera vividamente comprendere la differenza tra l'idea di città industriale, meccanica, seriale, a cui in qualche maniera quel famosissimo dipinto richiama e progetta allo stesso tempo, e invece il mondo in cui viviamo oggi, la presenza sì della stratificazione, sì della complessità, sì della compresenza del frammentario, del caotico, del molteplice, eccetera, ma anche in maniera, secondo me, molto forte, la presenza e la responsabilità della persistenza di un'immagine storica, dell'immagine di Roma in quanto città della storia, perché se New York è la città del cosmopolitismo, se Parigi è la città della cultura, Roma è la città della storia e non c'è niente da fare, nessuna città al mondo ha quello che ha Roma, 3.000 anni di storia ininterrotta con tracce stratificate per 3.000 anni, questa è inevitabile ed è la nostra grande risorsa e ricchezza. Quindi diciamo è chiaro che questo è un elemento imprescindibile, ma è altrettanto imprescindibile, come vediamo dall'immagine di Rauschenberg, che è un artista pop art, intendiamoci bene, uno dei grandi innovatori dell'arte della seconda parte del Novecento, è un'immagine non certo nostalgica, non certo postmoderna, non certo mimetica in alcun modo. Adesso voi non potete vedere fino con una certa attenzione, ma l'importanza dell'immagine che gioca sulle stratificazioni, che gioca sulla presenza, sono proprio questi innesti che quasi intravedono appena nella proiezione di elementi figurativi, iconici, astratti, del tutto contemporanei e in qualche maniera non stridenti, ma che contribuiscono fortemente all'immagine nuova. Quindi diciamo una cosa molto importante secondo me con questo. Ora, questo progetto, che è un progetto come dire, culturale, di comunicazione culturale di quello che Roma può essere, è un progetto che ha a che vedere con un'altra parola importantissima che deve entrare in campo, secondo me. La parola è imprinting, la parola è la capacità di rammemorare quello che un'essenza urbana è fin dal momento fondativo, fin dall'attimo in cui questa entità si è cominciata a formare. Ora, Roma, una cosa è certa, che Roma non è una città romana. Che cosa intendiamo dire? Che Roma non è una città artificiale fondata sulle regole militari di occupazione del suolo, su cui invece il concetto di romanità si è basato e su cui moltissime città italiane, soprattutto al nord, sono fondate. Roma invece ha un cuore etrusco, e questo cuore etrusco, che i nostri archeologi hanno tra l'altro scoperto, le continue ricerche di Carandini fino nell'area del Foro provano scientificamente questa cosa. Roma è una città che ha un imprinting etrusco. Che cosa vuol dire? Che ha dentro di sé un rapporto organico con la natura, un rapporto di continua mescolazione con la natura. Un imprinting, un modo di essere profondamente diverso da quello romano. In questo senso, la prima cosa che bisogna far capire e sentire è che Roma non è una città romana, ma è una città che ha questo cuore del matrimonio costante tra natura e architettura. Questo è un elemento, ma è anche allo stesso tempo una logica formativa, decisionale, progettuale, che implica la progettualità colta di oggi, che la può indirizzare e che la può indirizzare sia ai livelli più forti degli architetti operanti a Roma con maggiore consapevolezza, citare Anselmi, citare in parte anche Franco Purini, si può fare all'interno di questo contesto. Su questa idea si possono misurare anche alcuni grandi personaggi esterni, ma non con un concetto di importazione meccanica e un avvilimento poi del progetto. Credo che di nuovo Lorenzo abbia citato, o anche Giorgio Mulatore, questa cosa che noi poi il progetto della DID, cioè che cosa ci abbiamo in mano, soprattutto se si vedono gli esecutivi, veramente ce lo si domanda. Chiudiamo questa parentesi. Quindi il momento dell'imprinting è un momento, cioè della comprensione reale delle specificità di Roma nell'innesto tra natura e architettura, è un fatto decisivo, soprattutto perché si lega a questo, si lega al concetto della stratificazione, si lega al concetto della continuità nel tempo e alla compresenza dei diversi strati. Ecco, a questo concetto bisogna aggiungere un'osservazione. E cioè che quanto era stato notato rispetto alla presenza a Roma di grandi nuclei di non costruito che si inframezzano alla città edificata anche nelle sue espansioni così turbinose negli anni anche più vicini a noi. Ebbene, questa presenza del rapporto tra costruito e verde naturale appunto anche oggetto di studi, peregrinazioni, scoprire camminando, che fa parte della ricerca dei situazionisti e dopo di essi ripresi anche dal nostro amico Lorenzo e dal suo gruppo. Ebbene, questa caratteristica è una caratteristica innanzitutto di progetto di Roma. Cioè, Roma è stata pensata attraverso questo tipo di rapporto. I grandi punei di verde che collegavano la città al territorio, il grande disegno del parco archeologico dell'Appia che da Piazza Venezia si apre a imbuto fino ai castelli, o anche il sistema a nord da Villa Borghese su lungo le sponde del Tevere, fanno parte di un disegno di piano che appunto legato all'esperienza del piano degli anni 60 di Piccinato, in cui appunto questa idea di Roma tra virgolette non romana ma etrusca, di cui dicevamo, questo imprinting è presente come scelta di progetto. Noi pensiamo, rivendichiamo che alcune di queste componenti, di questo imprinting etrusco di Roma faccia parte del suo DNA ed è da rilanciare nel futuro con progetti anche violentemente moderni, ma allo stesso tempo fortemente capaci di capire in profondità alcune pezzi di DNA di questa città.